Blu Radio. Rock Wave, l'onda del rock. Buonasera a tutti, sono le 22 e 29 minuti in questo preciso istante, quindi riusciamo a iniziare anche con ben un minuto di anticipo. C'è uno strano rumore qui sottofondo, una specie di rumore da cartone animato, ma nessun problema, inizia Rock Wave, inizia un appuntamento importante, lungamente annunciato sulle nostre frequenze e anche sul nostro sito web. Abbiamo con noi un graditissimo ritorno, è con noi appunto per la seconda volta Paul Hiraga, anche conosciuto come Down Pilot. Welcome Paul, welcome back. Yes, thank you, nice to be back. So we are so glad to have you back. Siamo così felici di averlo di ritorno nel nostro studio. Paul sta facendo una tournée in tutta Europa, che sta passando in questi giorni per l'Italia. Domani sera suonerà a Padova alla Mela di Newton, diciamolo subito, è un locale in zona Specola dove lui appunto si esibirà, ma questa sera ci darà un'anticipazione della sua musica e parleremo soprattutto del suo nuovo album. Infatti lui, che vive a Seattle, è tornato in Europa proprio per la promozione di questo CD che si intitola New Great Lakes ed è uscito da un mese circa. Is it out from one month now, more or less? Came out in September. September, ok. Allora si è uscito a settembre il disco, quindi parliamo di poco più di un mese. È stato molto trasmesso qui sulle nostre frequenze, soprattutto nella fascia di Rock Wave. Direi che è un disco che conferma tutto il talento di Paul come compositore e come cantante. Prima di sentirlo suonare dal vivo ci ascoltiamo un brano dall'album, come sempre facciamo, così per introdurre i nostri ascoltatori che non avessero ancora avuto l'occasione di sentirlo al suo mondo sonoro. Il brano che ha scelto è Through Your Lines. Questa è una canzone in cui c'è una... You said you cannot play this song here because there's a female voice, right? Yeah, it's a duet really, and it sounds about half complete if I sing it by myself. It's okay, but I haven't been playing it solo just because it's so much better. Sì, dice, questa è una canzone, ha deciso di farla sentire dal disco perché, come sentirete, è un duetto e lui qui è da solo, quindi dice che cantarla quando non c'è la voce femminile gli sembra un po' di amputare la canzone, non è completa. Anne-Marie Rilianciec, di Walkabouts, formerly from the Walkabouts. Anne-Marie, the woman singing. Yeah. She used to play violin for the Walkabouts. Ah, ecco, la ragazza di cui sentirete la voce è stata violinista per i Walkabouts, quindi questo significa che io l'ho anche vista dal vivo un po' di anni fa. Si chiama Anne-Marie Rulianciec. Yeah, ecco. Rulianciec is not an American name, non sembra americana, è croata. Yeah. E allora adesso sentiremo anche la sua voce in questo brano che, come ho detto prima, si intitola Through Your Lines, sono i Down Pilot. Oh, Blu Radio. Rock Wave, l'onda del rock. Through Your Lines, questo brano che nel suono della chitarra, stavo dicendo appunto con Paul, diciamo fuori diretta, ricorda un po' Neil Young, queste sonorità. How do you say the guitar is... Loose, dice yeah. La chitarra è loose, che in italiano non è facilissimo da tradurre, è un po', come dire, andante, un po' molla, un po' liscia, è un po' lasciata andare, però è un'atmosfera molto evocativa. I think it's a way of playing that brings a lot of things in your mind. Porta molta ispirazione, molto calda anche. I think it's letting go of technique a little bit, not being preoccupied with technique and really just playing more emotionally. Si dice appunto è un modo di suonare in cui non ti preoccupi molto della tecnica con cui suoni, ma ti lasci andare dal punto di vista emozionale. E questa sì, direi che è una cosa che si lega molto al discorso musicale di Neil Young, che ha fatto anche dei dischi in cui c'erano degli errori tecnici, li ha lasciati. I know that Neil Young left some mistakes in some of his records because he said that they sounded better like that. Yeah, yeah. But there are not mistakes in your record. Non ci sono però errori nel suo disco. No, actually, you know, in this age of computer recorded music, you can fix everything. But I was really wanting to leave some imperfections. I wanted to do live performances and not fix everything, not make it perfect. Sì, giustamente Paul dice, oggi come oggi con le tecniche che sono disponibili, soprattutto dal punto di vista, diciamo, dell'uso dei computer, qualsiasi tipo di errore può essere corretto, può essere cancellato. Però lui ha voluto lasciare che ci fosse qualche piccola imperfezione in un disco che è in buona parte suonato dal vivo, perché così è più caldo, that's more... Human. C'è più umanità e meno computer, più emozione. Questo nuovo disco è stato registrato su un'isola che si chiama Washington Island, in un posto, in uno studio che è chiamato il Pumpkin Palace, il palazzo della zucca. Lui mi ha già spiegato che questo posto si chiama Pumpkin Palace perché è dipinto di arancione. So you said that Pumpkin Palace is orange. Yeah, it's painted orange. But outside. Not fuori. Outside, on the inside. Dentro, yes. Inside. And is that good for playing? Va bene per suonare, perché la mia impressione è che uno non sia molto rilassato se vede... can you relax yourself when you see everything orange around you? Actually, what you see mostly, it's a studio in the woods. So they have glass garage doors that are open to... You see the trees, you see the forest. Okay. So this is with orange, and of course there are other things on the wall. The sound diffusers are made from logs, rough logs, wood, the trees, yeah. You know, cut on the edge. Yeah. Sì, dice questo posto è in mezzo a una foresta. Parliamo, it's not far from Seattle, right? Right. Quindi parliamo della zona del nord-ovest degli Stati Uniti, dove c'è Seattle, una zona di estese foreste. Lo studio su quest'isola è in mezzo a un bosco e ci sono delle grandi finestre da cui si vede proprio il bosco. Gli altoparlanti sono ricavati da dei tronchi di legno tagliati, quindi immagino che sia come essere una specie nella giungla, vivere, non dico come Tarzan, ma quasi. So you were in the middle of the woods, basically. Yes, exactly. It must be beautiful. That's un posto splendido. Yeah, yeah. I went there for 1 week in isolation to start the album, and had nobody with me, and just made myself stay in the studio for 1 week and work on songwriting. Ah, ha detto è stato una settimana da solo in questo posto. Per lavorare appunto completamente alla scrittura delle canzoni, completamente isolato dal mondo e per concentrarsi al 100% sul disco. Quindi non c'era neanche un tecnico del suono. There was no sound engineer. No, also? I was the sound engineer. You were. Right. Lui era sound engineer, like an eremit. I don't know how to say it in English. People who lives alone. Yeah, hermit. Eremit. Yeah, era come un eremita. Yeah. È una scelta molto molto drastica. This is very strong choice. I mean. Yeah, yeah. I think I was a little bit stuck. If you understand, sì, era un po' bloccato, diceva. Mm-hmm. And I think I needed to do something drastic to start the engine again. Dovevo fare qualcosa di drastico per riavviare il motore, e ho deciso appunto di fare questa cosa. Diciamo, da un punto di vista di un italiano, questo ricorda molto, non so, un film western. For us from Italy. It reminds us to, you know, the people from the far west, the cowboys. Yeah. You're alone in the middle of nowhere. Mm-hmm. Sei da solo nel mezzo del nulla, e se succede qualcosa nessuno può aiutarti. If something happens, nobody can help you. Well, you have a cell phone. Oh, of course. It's not rustica. It's civilization. So it's not too dangerous and not too far from civilization, but still. No houses around me. I could see no other houses. Just the house, the person who owns the studio lives right there, but he was gone on vacation. So he said, you can stay at my house and work in my studio for 1 week. Very good. Yeah. Ha detto che il proprietario dello studio abita in una casa lì vicino, però era andato in vacanza, quindi gli ha lasciato le chiavi e lui stava poteva alloggiare appunto nella casa e utilizzare lo studio al massimo. È veramente una scelta molto molto molto interessante, che fra l'altro ha dato un risultato brillante. Saying that it worked. So that's important, you know, because everything else it's nice to hear, but the result is what matters. Yeah, yeah, it did work. Naturalmente, dico, la storia è molto simpatica, ma quello che interessa poi a chi ha in mano il disco e lo ascolta è il risultato finale, che è stato molto molto valido. Can you play a song for us now? Yes. Allora adesso Paul ci suonerà una canzone, and which song is? It's the first track on the album, Edge of the Flood. È la canzone che apre l'album, si intitola Edge of the Flood. Lui è Down Pilot, dal vivo a Blue Radio Veneto su Rockaway. Cause to Edge of the World, una canzone... Edge of the Flood. Sorry, Edge of the Flood, sì, ho anche sbagliato il titolo. L'emozione qui di sentire la musica dal vivo è sempre straordinaria. Io spero, cari ascoltatori, che si riesca a trasmettere anche a voi questa sensazione che si ha avendo il musicista qui in studio, che è una cosa molto, molto diversa da suonare i dischi, anche se naturalmente... come diceva Paul, il disco è più preciso, più corretto, i toni sono tutti calibrati, però c'è una partecipazione diversa. I'm saying that having you here, it's completely different from the record. Yeah. It's a different feeling and it's a very big emotion for all of us. Cool. And that's why we always make all this live show every time we can. Questo è il motivo per cui, come sapete, la nostra emittente cerca di fare il più possibile queste serate con i musicisti dal vivo. Ci regalano delle cose, dei momenti che sono particolari. E, mentre ascoltavo questa canzone, io la testa, si sa, il cervello vaga, e mi è venuta in mente una frase di Pete Townshend che diceva che una canzone per essere buona deve funzionare con la chitarra acustica, dopodiché puoi suonarla anche con un'orchestra di 50 elementi. Allora voglio dire questa cosa perché questa canzone, appunto, abbiamo sentito, funziona benissimo anche con una chitarra acustica. Saying Paul that when I was listening to this song, my mind came statement from Pete Townshend. That he said once that if a song is good, you can feel it by playing it with an acoustic guitar. Exactly. That's always been my philosophy as well. La tua filosofia uguale. I was thinking about that, you know, because this song is very beautiful anyway. You can play it, you can add another 30 instruments if you want, but yeah. It's the song itself, it works very well. Sì, appunto, anche lui è d'accordo su questa cosa che secondo me molti musicisti dimenticano in questa epoca in cui la tecnologia gli permette di fare cose straordinarie usando anche magari dei mezzi non particolarmente costosi, però si sentono troppi dischi che hanno tanti orpelli, diciamo. There are many records now that are over-arranged. Yeah. It's very easy now to add new other instruments. It is, and it on this record, it was actually the biggest challenge was not to keep recording. I always felt like I wanted to add more things, and I had to stop myself. You have to stop. Sì, ha detto anche lui si è trovato nella situazione di doversi trattenere perché appunto c'è sempre la tentazione di andare ad aggiungere cose, e invece la sua sfida è stata quella di tenere il disco il più possibile semplice, in modo tale naturalmente anche da far risaltare le canzoni. This was made to make the song in a wider light. I mean the songs themselves not overproduced. Yeah. Yes. È un po' come certi piatti che sono migliori quando si evita di aggiungerci troppe salse. It's like cooking. Questo lo dico perché Paul mi ha rivelato prima che per un periodo della sua vita ha fatto anche il cuoco. So you were a cook yourself. Yes. That's why it came to my mind. And sometimes the cooks are trying to add too many things. Exactly. It's very, very same. We often call recording a song the soup. la soup. Sì, ha detto molte volte è la stessa cosa, a volte chiamano, definiscono il procedimento di registrare una canzone la zuppa, si fa una zuppa e appunto molte volte la zuppa diventa un minestrone perché appunto si mette dentro tutto quello che si ha in cucina. Adesso ci ascoltiamo la canzone che dà il titolo all'album, che si intitola New Great Lakes, Nuovi Grandi Laghi. The Great Lakes in the USA are, you know, around Michigan. Sì, i grandi laghi sono appunto la zona del Michigan da cui lui proviene. Questi nuovi, the new ones, where are they? It's not so literal, like there is actually new Great Lakes, but it's sort of more like looking ahead and reinventing your reality, or looking forward to a new frontier. Ah, ok, dice che naturalmente non ci sono dei nuovi grandi laghi, ma è un'idea metaforica di cercare una nuova frontiera, di cercare un nuovo traguardo, appunto, perché quando penso che sia perché quando arrivarono a scoprire i grandi laghi fu una cosa. This is because when they first arrived to the Great Lakes, it was a big discovery. Is what we, the reason why you choose this metaphor, or am I just? I think it's more personal, really, because Great Lakes to me means home. Ah, ok. No, è molto più personale la cosa, dice, perché per lui i Grandi Laghi, appunto la zona dei Grandi Laghi, significa casa, il posto dove è nato, anche se poi your home is almost everywhere now. Now, yeah. Si dice, la sua casa ormai è quasi dappertutto perché ha viaggiato tantissimo nella sua vita, si è spostato parecchio. E in questo brano c'è anche un uso degli archi, a proposito, talking about arrangements, parlando di arrangiamenti, there are violins in this song. Is there something new for you, as far as I know? No, not really. I mean, the violins, the solo violin is not new, but there was also some. Do you know this instrument, mellotron? Sì, c'è del mellotron. Yes, it's an old, ancient instrument, of course, used by Moody Blues, Pink Floyd, Led Zeppelin. It's tape loops, old physical tape loops. Yeah. Si dice che in realtà questi che sentiamo non sono veramente degli archi, ma è un mellotron, uno strumento che fu inventato alla fine degli anni 60, che è stato usato in maniera estensiva dai varie band dell'epoca, i King Crimson e i Pink Floyd. King Crimson in particolare ci fecero praticamente il primo disco intorno, in The Curse of the Crimson King. Allora ci ascoltiamo questa New Great Lakes, sempre da Down Pilot. Thank you. Blu Radio. Blu Radio. SMS 346 23 20 033. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. New Great Lakes, la title track del nuovo album di Down Pilot, che è qui con noi negli studi di Blu Radio Veneto, l'appuntamento con Rock Wave di tutte le sere, dal lunedì al venerdì, dalle 22.30 alle 24, e quando abbiamo l'opportunità con musica dal vivo, come in questo caso. Questo brano New Great Lakes aveva un arrangiamento che comprendeva, oltre al mellotron di cui parlava prima Paul, anche vibrafono, piano elettrico, insomma c'era una grande ricchezza di strumenti, però come avete sentito tutti usati in maniera estremamente attenta, molto equilibrata. E mi ricordo che l'altra volta che è stato qui con noi, Paul mi disse che il suo primo approccio con la musica è stato le lezioni di pianoforte. Secondo me qui è riemerso qualcosa di questo suo passato. You told me, well, first time you went here, that you had a piano lesson when you were a kid. Yeah, that was the first instrument I learned. Yes, but in this song maybe there was something coming from those, because there's a kind of classic atmosphere. I'm not sure either. I think you can hear it better than I can sometimes. Ah, ok, lui dice che probabilmente, che forse io lo percepisco più di quanto lui possa fare, il che è anche possibile, perché chiaramente se sono cose che lui ha preso quando era bambino, sono ormai interiorizzate. This is something that is inside you forever, I think. Yeah. Because we were 6 years old, I think. Yeah, five. Sì, aveva 5 anni quando ha preso queste lezioni di pianoforte, quindi chiaramente sono cose che poi ti restano dentro. Adesso penso ci suoni un'altra canzone. Can you play another song for us? Of course. And which song? Gone Castaway. Gone Castaway, anche questa naturalmente è un brano che poi trovate nel suo nuovo album New Great Lakes. Pressed in to the ground, guided by the sound, it's warm and it's out of sight, till they light up. See river say, left it in the light of day, and gone cast away. Gone Cast Away era il titolo di questa canzone, questa è una melodia magnifica che ci ha regalato qui dal vivo nel nostro studio Paul Hiraga, Dan Pilot. Questa canzone, se non vado errato, è stata scelta per un video che è stato messo in circolazione prima dell'uscita dell'album. If I remember right, this song was in a video that anticipated the, the record. Una volta si sarebbe fatto un singolo, Once Upon a Time, they used to make... you know, 45. Yeah, this is the difficult 45. yeah, not quite a single, but we thought, well, this was a good one to be the first song to release from the album. Sì, ha detto, ormai il singolo non si fa più, hanno pensato, e immagino che con questo intenda anche i responsabili della sua casa discografica tedesca, la Tapeti Record, che poteva essere una buona canzone per anticipare l'uscita dell'album. Non so se secondo lui è più facile o più difficile adesso. You think it's easier now or harder to, you know, to show the record to the world? There are no more singles, there are videos. Il mondo è molto cambiato, non ci sono più i singoli, ci sono i video, e i video che poi non vengono nemmeno più trasmessi tanto in televisione quanto su YouTube o sulla diffusione di computer. Non so, per un musicista è più facile. For you, it's easier or harder in this way? You know, I think it's both, because if you have a label, which I do, then putting out a single would be the way to promote the album. And this used to be something that people paid attention to. So now, the new single is more like putting something on Facebook or putting a video on YouTube. And it's easier to do, but it's harder to get into people's heads to remember it because everybody's doing it. Si dice che una volta appunto si sarebbe fatto un singolo, si sarebbe creato una certa attenzione su questa cosa. Adesso è molto più facile proporre qualcosa perché lo si mette appunto, semplicemente si fa un upload online e a disposizione di tutti, ma allo stesso tempo è molto più difficile ricevere attenzione perché tutti lo stanno facendo. Lui ha un'etichetta discografica e quindi lavorano ancora con i sistemi di un'etichetta discografica, quindi ad esempio ci mandano i dischi qua in radio per la promozione e hanno i loro canali per recensire i dischi, ma questo appunto lo stanno facendo un po' troppo e quindi è molto difficile emergere. Volevo chiedere un'altra cosa, questo è il suo quarto o quinto disco. I don't remember if this is the fourth or fifth record for you. It's, well, if you count the EP, which was the very first record, this would be the fifth. Ok, infatti anch'io ero un po' in confusione perché non ricordavo bene, lui ha fatto un extended play che è stato il vero esordio, quindi questo sarebbe il quinto disco, però insomma... Fourth full album. Yes, yeah, fourth and a half. Yeah. Il quarto virgola cinque, il quarto e mezzo disco. E, vorrei sapere, comincia a essere, diciamo, un numero di dischi, non dico importante, perché ci sono dei musicisti che ne hanno fatti tantissimi, però è una cosa che ormai lui dovrebbe essere abituato a fare. Cioè, it's different for me to make a record after the first two or three. So it starts to be something normal to do it. È come una cosa normale adesso fare un disco, non è più un avvenimento, it's no more an important moment of your life. Yeah, I mean, I think that every album feels a little bit like the first, because starting an album is a hard thing to do. But yeah, I think knowing that I've made three albums already, making a fourth seems logical. Si dice, è sempre un po' come fare il primo disco, perché è un'emozione ogni volta mettersi a lavoro, però avendo già fatto tre dischi, farne un quarto sembra logico. It's a natural consequence of your previous job. Yeah. Sì, in effetti dire, io ho detto una naturale conseguenza, lo è anche secondo me dal punto di vista musicale, nel senso che è un ulteriore passo avanti in quella direzione. I think that it's a consequence also because it's a step ahead of the others. This record could not exist as it is without the others, in my opinion. Sì, penso che questo disco non potrebbe esistere così com'è se non ci fossero stati quelli prima, perché lui adesso ormai ha raggiunto uno stile che è il stile Down Pilot. You have your own Down Pilot sound, let's say. Mm-hmm. E questo disco in particolare mi sembra molto legato al precedente. This is special in my opinion, very close to They Kind of Shine. It's following the same steps, mm-hmm. but maybe more, it's less pop and more intimate. Yeah, I think you're right. Oh, thank you. Ok, io tiro un po' sempre a indovinare, perché sono le mie impressioni, poi le dico mentre le sto dicendo, dico magari adesso mi dirà che ho detto una stupidaggine, invece per fortuna mi ha dato ragione. Cioè, questo è un disco un po' meno pop rispetto a The Kind of Shine, è un po' più intimistico, forse questo è anche un riflesso del modo, del posto dove è stato creato. Maybe the place where you went to make the record reflects in parts of this. Yeah, maybe the place, but I think more the place where my head was at the time, you know, my state of mind. Ah, si dice che più che il posto dove era lui fisicamente, quello che importa nel disco è dove era la sua testa in quel momento, il suo modo di pensare. Adesso la prossima canzone che ci ascoltiamo dal disco si intitola New York Storms, gli uragani, le tempeste di New York. Pensavo che New York fosse una delle poche città. Did you live in New York as well? Yeah, I've lived in New York for just a short while, but I've been going to New York regularly for years. I have kind of a long involved history with New York, with friends, family, and ex-girlfriends, you know. So girlfriends with an S at the end. Well, two different episodes. Okay. In New York. Si è detto che lui ha abitato a New York per un periodo molto breve, però ha frequentato parecchio la città per altre ragioni, per ragioni di amicizia, di famiglia e anche di ex ragazze, plurale, però ha detto sono solo due, quindi un numero abbastanza ridotto, almeno per New York. E allora ci ascoltiamo questa New York Storms, che è un brano piano ballad. Yeah. È una ballata al pianoforte. There are many piano songs about New York City. Okay. Bruce Springsteen, New York City, sure. Serenade, yeah. Billy Joel, 4, 5, 6 songs. Most of his albums. Buona parte dei dischi di Billy Joel sono ballate sul pianoforte su New York. Poi ho ricordato New York City Serenade. So it was made on purpose to make a piano song? No, not at all. No, actually the music of this song came first. It actually happened maybe the third day that I was out at the Pumpkin Palace. And then I wasn't sure what the song would become, but the lyrics came afterwards. Ah, ok. Io pensavo appunto che avesse fatto la ballata di pianoforte su New York, perché appunto ci sono tante, tante canzoni di questo, anche il Blue Eyes di Lou Reed, per dire, che è riferita molto a New York. Però invece ha detto che lui aveva già la musica e il testo a seguito, quindi è una pura combinazione che questo pezzo di pianoforte sia dedicato a New York. Allora, New York Storms, sempre Down Pilot, qui su Blu Radio Veneto. Thank you. clap, it shook the streets, set off a car alarm. We've been fighting through these New York storms all damn summer long. With the fall that comes, the chill, we should be flown away. Try as we may, won't make it back, things will never be the same. Oh, crazy rain. Shut all the airports again. It's too late to call your friend, so we'll stay the night on an island in a city paradise, burning all the buildings and the place you thought you had in mind. Through the back streets, stepping on the razor blades. This'll be the last time that New York is a fairy tale. And if you click your heels, you make a spark and blew it all away. Crazy rain, cool my face again. Streets of a city era il titolo di questa canzone, molto evocativa, molto tranquilla, anche se parla di tempeste. The song is about storms, but it's very quiet. Mm-hmm. So it's a song after the storm, maybe. Or before. Ah, ok, dice, io ho detto forse la canzone prende luogo dopo la tempesta. Lui ha detto forse prima, giustamente, perché c'è la calma prima della tempesta e anche quella dopo. E, allora, il disco è stato fatto, come abbiamo detto, da lui da solo in mezzo in questa isola. Immagino sia un'isola piccola. The island where he went is a small one. Yeah, very small. Ah, very small. Yeah, so. I mean, I don't know, it not as big as Sicilia, of course. But it's small. You leave Seattle and you have to take a boat, a ferry boat. Yeah, and it's only a very short ride, 15-20 minutes, but then you feel like you're completely out of the city and in a small town or in the country. Is there people living there? Oh yes, yeah. Okay. Yeah. There are lots of people living there. It's big enough to have a small highway going through it, but lots of land that's open. Okay. Sì, questa isola che si chiama, vi ricordo così perché guardala magari su Google Earth. Si intitola, si chiama Ocean Island ed è a una ventina di minuti di ferry boat da Seattle, quindi è abbastanza vicina a una città di grandi dimensioni, fra l'altro una delle città più importanti del mondo dal punto di vista industriale, soprattutto per l'economia, la new economy. E però dice appunto si fanno questi 20 minuti di ferry boat e si finisce in un posto dove c'è, sì, ci sono un po' di abitanti, c'è anche una piccola autostrada, però l'impressione è proprio quella di essere fuori dal mondo, insomma. C'è stato qualche rumore qua nel nostro studio, non vi preoccupate, non si è rotto nulla, la chitarra è intatta. That's ok. Quindi lui è stato una settimana lì e poi è tornato in studio dove ha aggiunto, diciamo, le altre cose. So, afterwards you come to a studio in Seattle and you finish the record. Yeah, right? My home studio. Nel suo studio a casa dove aveva fatto anche Every Kind of Shine. E mi chiedo quanta parte del disco sia frutto delle registrazioni originali. How much of the original recordings is still in the record? I actually did go back to the same studio at the end to do some last minute things because he has such a nice collection of instruments out there. Ah, quindi poi è tornato all'ultimo momento ancora in questa isola allo studio per fare gli ultimi ritocchi perché ha il proprietario dello studio ha una notevole collezione di strumenti e che lui voleva appunto utilizzare per dare gli ultimi ritocchi. Comunque non vedo il nome. There's no producer in this record. You made it by yourself. Yeah, I made it myself. Si dice, ho avuto la conferma, non c'è un produttore nel disco, l'ha fatto completamente da solo, però devo dire che le idee erano molto chiare. Molti musicisti hanno bisogno invece di qualcuno che li spiega. There are many musicians that they need a producer. Yeah, and now I understand why. Si dice, well, actually the last two albums I self-produced, and for some reason this one was much harder. Ha detto sì, capisce perché qualche musicista ha bisogno di un produttore. Lui ha prodotto i suoi ultimi due dischi, ma questo è stato molto più difficoltoso. Ma a questo punto io vorrei sapere perché. Why harder? Because you don't have perspective, and you're on the inside, but you need to step outside and look at it from that different perspective. It's very difficult to do. Si dice che è molto difficile riuscire a osservare il tuo lavoro da una prospettiva esterna, cioè devi riuscire praticamente è come se un calciatore facesse anche l'allenatore della squadra. It's like if a player in a team is also the coach. Yeah, exactly. Cioè è molto difficile essere. Devi essere ben poco indulgente nei tuoi stessi confronti. It might not be self-indulgent. I mean, self-indulgent. I guess the music. You have to treat yourself rough. Yes, and you do. And I also, at the very end, when I needed help, I used my old bandmates, Anne-Marie and Jeff Brown. I had them come in and I played them all of the songs as I had them and then said, what do you think? Ecco, alla fine ha chiamato i suoi vecchi compagni di band, Hammery and Jeff, e gli ha suonato le canzoni, gli ha fatto ascoltare e ha chiesto il loro parere. Quindi immagino che le loro relazioni siano ancora, cioè, even if you are not playing together, I suppose that your relationship is still very good. Oh, we still play together. Oh, okay. Yeah, yeah. When we play live shows in Seattle, they are still in the band. Ah, quindi a Seattle suonano ancora insieme, quindi Dan Pilot, come io li vidi qualche anno fa dal vivo in Germania, I saw the full band in Germany a few years ago. Any chance to have them back in Europe? Qualche speranza di rivederli? If we have some really rich Down Pilot fan offer us free plane tickets, then yes. Si dice, se c'è qualche ricco fan di Down Pilot che gli offre i biglietti aerei, sarebbero ben felici di tornare in Europa a suonare. But we are happy to have you solo as well. Okay. Ma noi siamo già contenti di avere lui qui. So what song are you going to play now? I think I'm going to play So I'll Try. So I'll Try, sempre una canzone tratta da, da, dal suo ultimo album New Great Lakes, e adesso Paul ce la suonerà dal vivo. Rock Wave, l'onda del rock. On for years about the problems of love. Now we're going to see just what they're made of. You were among the things I loved then. You were among the best of them. They'll say you can never go back, so I'll try. Well-worn down facade was waiting for me. On a numbered street alphabet city, you were among the things I left then. You were among the best of them. They'll say you can never go back, so I'll try. Try era il titolo di questo brano, l'abbiamo sentito dal vivo qui su Blu Radio Veneto, dalla voce di Down Pilot, Paul Hiraga. E, adesso, anche per lasciargli prendere un attimo di fiato, direi di ascoltarci subito un altro brano dal suo disco. Questa si intitola The Rust Belt, e anche qui c'è un riferimento geografico, la fascia della ruggine, cosiddetta, è una zona degli Stati Uniti dove ci fu la prima grande industrializzazione americana, con l'industria dell'acciaio e dell'automobile, fra la Pennsylvania e la Michigan. E, poi ci furono le grandi crisi, la prima negli anni 70, adesso ce n'è stata un'altra, come sappiamo, più recente, e lì appunto molte fabbriche sono state chiuse, parliamo di fabbriche enormi, e sono arrugginite letteralmente, non per modo di dire, quindi hanno chiamato tutta questa zona la fascia della ruggine, the Rust Belt. E, immagino che Paul aveva scritto una canzone su questo perché lui proviene da... You wrote a song about the Rust Belt because it's your hometown. Yeah, this is actually a really old song. This is something that was written even before Down Pilot was formed. And it's a song that's been floating around. We tried to play it with Down Pilot early on as a rock song, and it didn't ever feel right. Ah, questa è una canzone molto vecchia che lui aveva scritto prima ancora di formare Down Pilot. Provarono a suonarla come band, quindi una versione più rock, e non funzionavano. But it's a very good song. È una canzone veramente bella. Yeah, yeah. I mean, you know, a lot of people have songs that have to incubate for a long time. You know, incubate. Yes. So I think this song, because it was written long ago, it has more of a young man sentiment of wanting to leave your small hometown, dreaming to leave. Ok, si dice che molti musicisti hanno delle canzoni che restano lì incubare proprio, e proprio perché è stata scritta quando lui era più giovane, c'è un sentimento come di voler abbandonare la tua città, la tua piccola città, il tuo piccolo mondo per orizzonti più ampi. So you wrote this when you were still living there? I think I might have started it and it finished itself over years, but I think that the sentiment from that song is definitely from an earlier part of my life where I wanted to escape. Si dice l'aveva cominciata a scrivere appunto quando ancora viveva là, poi ci sono stati dei cambiamenti e riflette appunto il sentimento di quando era un giovane ragazzo che voleva squagliarsela, diciamo così, scappare dalla cittadina in cui si ritrovava a vivere. Allora, I think it's a very American thing, maybe. Si dice una cosa molto americana. Sì, questa è una cosa che noi sorprende molto, perché qui in Italia, diciamo, la maggior parte delle persone nasce e muore nella stessa città. Io sono il primo a poter dire questo, mentre tutte le volte che abbiamo qua qualche musicista, raramente uno è rimasto nella stessa città. All the American musicians that came here, they all have the same stories. They move away from one side to the other. Abbiamo avuto Elizabeth Cutler due settimane fa, che addirittura da Boston si è trasferita a Nashville e poi a Roma, che insomma è un salto abbastanza importante, ma tante altre esperienze. Non so, è qualcosa che è proprio insito negli americani. This is something that the Americans have to do. Well, especially artists. I think artists have this vagabond spirit that if you sit still too long, you stagnate. It's stimulating to move to new and challenging places, I guess. Si dice che per un artista questo, secondo lui, è una cosa importante. Cioè, muoversi significa trovare nuovi stimoli, altrimenti se resti sempre nello stesso posto diventi stagnante, è proprio il termine. E quindi muoversi, cambiare aria, cambiare amicizia, cambiare giro è una buona spinta a trovare dei nuovi stimoli. How long have you been in Seattle right now? Now 12 years, so this is the longest I've ever stayed anywhere other than my hometown. Si dice adesso sono 12 anni che sta a Seattle, quindi è la più lunga permanenza che ha avuto in vita sua, tranne naturalamente la città dove what is your hometown? What is the name? It's called Ann Arbor, Michigan, and it's just about 40 minutes outside of Detroit. Ann Arbor in Michigan, 40 minuti fuori da Detroit, che se non vado errato è la città di Iggy Pop. Iggy Pop, yeah, homeboy. And Bob Seger. E Bob Seger. Not quite as cool as Iggy Pop. Direi che è una buona compagnia, insomma, ci sono nati Iggy Pop e Bob Seger, due che fra l'altro pestano abbastanza forte, pestavano, insomma. Ma Iggy Pop continua, devo dire, nonostante l'età, essere piuttosto energico. Allora ci ascoltiamo questa The Rust Belt. Thank you. vitriol spew out black happiness. Sometimes I need just what you'll never be. The river rouged in yellow loneliness. Warm snow blanket, desperate one. We'll keep you cold, make you slide off the road. Never melt at this elevation. It's riding in the rust belt. It's riding in the rust belt. Radio. Blu Radio. SMS 346 23 20 033. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Scusate, stavo parlando in inglese. Sono le 23:37 minuti. Abbiamo ascoltato The Rust Belt, sempre dall'ultimo album di Down Pilot intitolato New Great Lakes. Abbiamo qui con noi Paul Hiraga, che è il cuore di Down Pilot, che domani sera, vi ricordo, suonerà a Padova in zona Specola alla Mela di Newton in Via della Paglia. Verso le 21:30. E adesso facciamo un attimo di, chiamiamola, pausa, perché Paul ha scelto qualche disco dai nostri archivi e così li ha scelti con qualche ragione ben precisa. Ad esempio, ha pescato un album degli X, un disco del 1982 che fece storia, Under the Big Black Sun. Adesso ci dirà perché ha scelto. Why did you choose this record? Well, our listeners should know that I'm at your house, staying at your house right now, and so okay. I was just looking through your CDs and trying to find something that jumped out at me. And so I saw this and I thought, I don't know why this jumps out at me, and then I thought about the connection. Si stava era a casa mia, prima stava cercando nella mia collezione di dischi, e questo disco gli è lui ha detto, ha usato il termine jump out, cioè gli è saltato fuori da mezzo agli altri, perché ci ha trovato una connessione. And the connection is someone, la connessione, è una persona in particolare. Yeah, I thought initially I just thought I love this album. Obviously. This was a really important album for me, but also somebody who plays with me, Maggie Bjorklund, pedal steel player, on the last song that you heard, she is on tour right now with John Doe. Si è detto, la connessione sta nel fatto che Maggie Bjorklund, che suona la pedal steel guitar, ha suonato nella canzone che abbiamo appena ascoltato, The Rust Belt, e in questo momento è in tour insieme a John Doe, che sta promuovendo il suo nuovo disco Keepers, che è molto bello fra l'altro. Ma naturalmente un'altra ragione per cui ha scelto il disco è che questo è un disco molto importante, per un disco che gli piacque molto all'epoca, insomma, un disco che è rimasto. You're not the only one who loved this record. Yeah, I'm sure. Sì, questo è un classico veramente del rock americano degli anni Ottanta. E la canzone che ha scelto è quella su cui anch'io puntavo gli occhi. That's this strange connection that I was hoping you to choose this song. Oh, cool. Perché all'epoca, parliamo del 1982, io trasmettevo già in radio, ero un bambino, ero un lavoro minorile. E qui qualcuno ridacchia, vabbè, e trasmettevo sempre questa canzone, appunto, un po' tutte di questo album, però questa in particolare, che si intitola We Have Nots, è veramente un pezzo straordinario. Getting higher and higher, darling. Blue Radio. Rock Wave, l'onda del rock. Grande canzone questa The Have Nots dagli X, da Under the Big Black Sun, 1982. E poi c'è un altro disco che ha scelto Paul, questo è un po' più recente, del 99, si intitola She Haunts My Dream ed è degli Spain. A tal proposito posso annunciare che a marzo-aprile uscirà un nuovo disco degli Spain per la Glitter House Records, di cui ho avuto la fortuna di ascoltare un paio di brani in anteprima, e che sono dei pezzi straordinari, quindi il ritorno di questa band dopo diversi anni si presenta veramente molto interessante. I was announcing the next record for Spain for 2012, but what do you want to say about this record? I'm not sure, I just was at a friend's house and he played this and I hadn't heard it in a really long time and it sounded so good, but then it also reminded me of a period of time where I had stopped playing music for a while. And this was right before Downpilot, and this was sort of the new type of music that I was really interested in. Oh, good. So it's very important for you. È interessante, lui ha detto che poco tempo fa era a casa di un amico che ha suonato questo album che lui non sentiva da parecchio tempo, e gli è tornato in mente che appunto in quell'epoca, parliamo del 99, aveva smesso di suonare, era prima del Downpilot, e sentire questo disco gli ha dato un po' l'ispirazione, perché ha pensato: questo è quello che mi piacerebbe fare, quello che voglio cercare di fare. So it's like Madeleine. Sorry? Proust Madeleine? Yeah. Speak French? Yeah. Si dice, è come la Madeleine di Proust, no? Una cosa che ti fa ritornare in mente il passato. E il brano che ha scelto Paul si intitola It's All Over, e sono gli Spain. Blu Radio Veneto. Dai colore alle tue frequenze. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Bene, questi erano gli Spain con It's All Over, che vuol dire è tutto finito. Per fortuna non è ancora tutto finito, qui abbiamo ancora diciamo quasi 10 minuti. Avremo naturalmente un'ultima canzone dal vivo per augurarvi la buonanotte, come tradizione di questo appuntamento live di Rock Wave, ma prima ascolteremo un altro estratto dall'album di Down Pilot, New Great Lakes, appunto uscito da poco. Si tratta di un brano intitolato Desolation Pass. Do you want to say something about the song or just no, lui no, too much talking, let's just play. Abbiamo parlato troppo, ascoltiamo direttamente la canzone, allora, Desolation Pass. Pass. È interessante il fatto che questo disco, che è nato in maniera così intimista, in molti brani, come ad esempio questo, ci faccia venire alla mente, almeno a me succede questo, dei grandi spazi, delle cose che non sono molto. This is a record that was made in a very intimistic situation. You were all alone in a, you know, secure place, but these songs are wide open. To reminds me to big places like the desert or the part of the USA where you have a lot of emptiness around you. And I think it's very interesting, this contrast. Was made on purpose? I don't think so. Non penso che sia stato fatto apposta. È una cosa che è venuta così. No, I don't think so either. It just kind of comes out the way it comes out. You don't really think about it. Succede così e basta. Non ci pensi su molto. Ma lui adesso, Paul vive a Seattle, che è una grande città, ma la sua musica non ha niente di urbano, secondo me. You live in a big city. Mm-hmm. Seattle is, I don't know, 1 million, two million people. Yeah. Un paio di milioni di abitanti. Big. But your music doesn't sound like city music. There's nothing, you know, all the... Seattle doesn't really feel like a city, though. Seattle okay. feels... I mean, yes, it does, but out of all the big cities that I've lived in, it feels a little bit more... wild, like you're the water, the sea is right there, the mountains are all around you, the city is just so green and full of trees, and so it doesn't feel like urban. In a big garden. Yeah. Si dice che in effetti non c'è niente della frenesia urbana, anche perché Seattle, pur avendo appunto 2 milioni di abitanti, non è quel tipo di città. È un posto dove c'è molta acqua, molti canali, molti fiumi, le montagne sono praticamente attaccate alla città e la città stessa è ricchissima di verde, e quindi è un posto un po' ibrido. Perché noi probabilmente quando pensiamo alla città pensiamo alle nostre città, oppure se pensiamo alla città americana pensiamo a Los Angeles o New York City. Yeah, when we think about an American town, we think about, you know, LA yeah, or New York. Yeah, so. Seattle, you're always aware of nature. You're always aware of how the natural world is bigger than the city. Ok, you feel the presence. Si dice che a Seattle tu hai sempre la sensazione della presenza della natura, hai sempre quella percezione che la natura selvaggia, proprio la definita the wild, quindi la natura grezza, non modificata dall'uomo, è più grande, più importante della città. E questo mi fa venire in mente, stavamo parlando qui in studio di Terry Lee Hale, che ha abitato a Seattle per molti anni, anche lui diceva che il bello di quella città è che se ti stanchi delle macchine fai 40 minuti di strada, massimo un'ora, e ti trovi in un posto dove puoi stare una settimana senza vedere un'anima viva. Yeah, Terry Lee Hale told me once about Seattle, more or less the same. He said that if you're tired of the town, you drive 45 minutes and you end up in a place where you can't see nobody for 1 week. Yeah. Is that true? Well, unfortunately, that's not as true as it used to be, because the city's becoming very crowded and everybody appreciates camping and getting out to nature, so everybody, it's hard to get away from the people. Si è detto che adesso le cose stanno un po' cambiando. Io parlo del discorso di una quindicina d'anni fa almeno, perché la città sta continuando a crescere, ha queste grosse industrie come Google e Microsoft che attirano chiaramente un numero impressionante di persone, e quindi anche ci sono molti che vanno a fare campeggio un po' nei dintorni della città, quindi è un po' meno selvaggia. Bene, siamo giunti alla fatidica mezzanotte, prima che la radio si trasformi anche questa in uno studio, in una zucca come lo studio dove Paul ha fatto il disco. It's midnight, so we can turn into a pumpkin, like the pumpkin palace. Yeah, so you will feel at home. Quindi purtroppo è ora di augurarvi la buonanotte, ma questo lo faremo nel migliore dei modi con un'altra canzone che Paul ci canterà. Vi ricordo, domani sera Paul sarà alla Mela di Newton a Padova, in zona Specola, in via della Paglia. Non mancate questo appuntamento straordinario con un musicista che, come avete sentito, sa regalare delle meravigliose emozioni. E vi ricordo che Rockwave torna tutte le sere dalle 22.30 alle 24. non so, il nostro regista Agostino, che fra l'altro le ringrazio. Diceva dove trovare il disco. Beh, il concerto sicuramente è la modo più semplice per acquistare questo New Great Lakes, appunto il nuovo disco di Dan Pilot. E adesso chiediamo a Paul, what song did you choose for telling good night to our listeners? We're closing the show with the last song on the album. This is called Rosebud of the Plain. Ok, è la canzone che chiude anche l'album, si intitola Rosebud of the Plain. L'ascoltiamo da Paul Hiraga, Dan Pallott, da Stefano Dainese, Agostino Spola, ora la regia e tutto lo staff di Rockwave. Un grazie a tutti per averci ascoltato, spero che vi siate divertiti come noi, stando dall'altra parte dell'emissione radiofonica. Buonanotte, grazie ancora e a presto. Paul Hiraga. Make it by tomorrow, hoping. But the devil of the great white open, he dropped me down, hanging high. Rosebud of the plain, like it came from the future, perfect, in a car from the long ago, deep. It stopped the rain, never ran again. Rosebud of the plain. Thank you.